riesci a giocare come ti pare e ti piace. E beh, giustamente c'è la possibilità, perché non approfittarne, dai, poi anche con quegli apparati già puoi andare dove ti pare e ti piace, quello sì, alla verità. Comunque, togliamo la curiosità, anche il 23 canale hai dato. Tutto, mentre il canale l'avevo messo a parte per Giulio, provo a passare a penso, poi non c'è passato, se tanto ormai, la KB23 che dice. Come conosce la KB23, no? Sì, quello piccolino, 23 canali, che bene o male usavi sempre la scorsa estate ogni giorno. Adesso mi ricordo se la KB23 è piccolino, come se non ricordo male, come il Midland, come un qualsiasi Midland, come nella 68 o il 44 forse, aveva quella grandezza lì. Tipo la 48, sì, quello ce l'ho entrato, ma ecco, in base li ho dati tutti a Gianni Caturro, la collezione console Galaxy, se l'ha riparato e se l'ha venduto. Se l'ha venduto la nuova poi il coso di lui c'è lo stesso, guardate tutti a lui, il Kodak base, l'Inuit base, guardate tutti a lui, ma aveva fatto un trasmettitore decametrico da accoppiare al ricevitore che c'avevo io, e quindi ci hanno fatto una linea. Giustamente la sfrutti, però togliamo una curiosità, almeno un minimo di nostalgia ce l'hai, dai, almeno qualcuno te lo potevi tenere, meno male sei cresciuto lì, dai, torno solamente per vederlo, e che almeno uno l'abbia lasciato, il 23 canale non l'avrei dato, sinceramente. Ma poi è cambiato tutto, capito, ci vai a vedere su QRZ, adesso c'è ancora la foto vecchia, ogni settimana dobbiamo cambiarla, deve vedere Massimiliano. Ormai Baracchino non c'è più, qua è solo la L composta dalla parte trasmettitori, HF, basi, tutti allineati, però quella sintonia continua tra sensorizzati, digitali, mentre l'altra parte è solo linee basi, capito? Linea di craft, linea somma, campo, linea yesh. Thank you. un attimo, mi sta facendo piccare, già siamo usciti. Quanti apparati c'hai, così una mia curiosità. PF in uso sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 HF in uso, HF, PF, processorizzata e sintonia continua, trattengo 2, ESU e ICOM, mentre in quelle valvolari sono 4 linee complete. Ce n'è giustamente abbastanza voluminose, ne prendo loro spazio, sì, e cioè è molto, sicuramente molto più tecnologico confronto a prima. No, già è bello, già danno delle belle soddisfazioni. Gianni, di cosa state parlando? Io, tienici informato. Allora Giuseppe, aspettiamo subito. Sì, niente, di cosa stavate parlando? Stavamo parlando solo di organizzarci per andare a pescare, capito? Ah, ecco, già, vabbè, fatemi sapere, se ho tempo libero volentieri, guarda, non so pescare, ma già rimango con voi a farvi compagnia per una chiacchierata, volentieri. Ma prenderete il discorso è questo, che se noi partiamo la sera alle 8, e entriamo anche in una mezza, alle 2, anche alle 3, hai capito, di mattina. Ma prenderete ci devi andare, Giuseppe. A te ti do il pesce paluro. Così, sono pesci palla, anche pesci trotta. Capito? E adesso si può andare come cara a questo momento, già si può andare a pescare. Noi, grazie a Dio, quando andiamo il pesce li togliamo e ce le mangiamo pure e non sono palle, facciamo tanto di fotografie e tanto di colzo. Ascolta, non c'è problema per l'orario, Giuseppe, dalle 8 alle 3, alle 4, non è un problema, ripeto, la possibilità volentieri, comunque non vantarti così tanto, dai, e quello che pesca di più lì è già nel doppio rum, sempre se ne prende. Ma lo capita, li prendiamo, giustamente anch'io già, non è per dire che sono bravo, però me la cavo, hai capito? Me la cavo. E lo so, non ti preoccupare, dai, già non vengo a portarvi sfiga, fammi sapere quando andate. Su per giù a te, a me, ci usiamo come verma, Questa è una bella, questa me la segno. Cosa dico? Quella battuta, Antonello, ci manca il verme, vieni a pescare con noi. Ecco che se nel caso non hanno i vermi, usano a me, capito, Cla? A Rioncino, sì. La battuta, Antonello, non fa attendere. Ah, che sto scherzando, lo so che è una battuta. No, infatti, 1-0 per te. Mi devo rifare. vabbè, dai. Era una piccola battuta, giustamente. Oh, tempo permette, perché... a dire e fare sono due cose diverse, perché le previsioni hanno detto che metteva buono, poi ci gira e gira anche male per noi, a volte. Ma quello sono pienamente d'accordo, comunque ho chiesto a mia moglie, mi ha detto che domani dovrebbe fare bello, domani, lunedì, poi da martedì, così ha sentito in televisione, dovrebbe arrivare una nuova perturbazione, dunque pioggia e freddo di nuovo, ma dimmi tu. Vedi, nel telefonino mio le previsioni ha messo lunedì e martedì mare poco sì, dunque quasi calme, hai capito? Va bene, poi se c'è un po' di freddo già uno si copre e non c'è nessun problema, poi se il mare a fanculo, il mare calmo, ben venga, dai, così c'è più possibilità di pescare. Comunque mi sa che quest'estate non ne ha voglia, Non ne ha voglia no, perché mi sta bruciando la stagione a me. Mi sta bruciando la stagione e dunque mi trovo male, hai capito? Dovevo scendere di Valghero, mi ha chiamato, però ma se non migliora il tempo è inutile che io scenda lì e lo lascio da fare. Attenzione, a guardarti in faccia. Lo so, anche questa ci voleva, porca miseria, non basta la situazione quotidiana di ogni giorno, anche il tempo ci si mette. E vabbè, come diceva un francese, se la vi, avanti, cra. Il tempo è così, bisogna lasciarlo, bisogna andare da solo. No, domani è andato nuvoloso di nuovo. Non piove sicuramente, però la giornata non è bella. C'è sempre vento da greccare, quindi porterà acqua martedì, sicuramente. Vabbè, ma spero che mi dia un po' di tregua la prossima settimana, perché mi prendo 10 giorni di ferie, così completiamo quel lavoro a casa. E se non serve Biglianculo, cosa deve fare? Vabbè, pazienza. Ma voglio una cosa, Gianni, ma quando fate i collegamenti, Gianni, ma non cartoline, non le mandate, non fate nessun riscontro come facevamo prima? No, non stiamo più mandando, prima andavo con le asciughe, dopo la mia personale, quella con la botte, già ce l'hai tu, mi pare, no? Sì, infatti, vabbè, ma di sicuro adesso sono anche passate. No, non basta che vai al timbro, a Bastiano, ti fai una foto vicino alle radio, o quella digitale, te la campi al computer e porti la foto e lui te la stampa sul cartoncino e dai 30 euro, io ne ho fatto 500 così, e le uso per mandare le QSL, vabbè, per noi è diverso, però io mi ricordo quando facevamo i collegamenti da CB, andavo una scatola e mansarda, quando ero a casa di mamma, le mandavamo e loro ce le mandavano, soprattutto i brasiliani, i spagnoli, gli olandesi, gli inglesi. Vabbè, dai, noi stiamo andando a mangiarci una pizzetta, ci sentiamo dopo magari, riprendete voi un attimo di quello che per noi. Va bene, già, buona pizzetta. Avanti, Antonio, 10 minuti, fumo questa sigaretta, poi chiudo. Sono tutta la sera richiuso qua dentro, via. Ciao già, per caso se ci siete a dopo, buon appetito. Sì, anch'io Clavi, anche altri 5 minuti e poi mi do una passata di acqua, una bella doccia e poi riattacco di nuovo. Comunque una bella idea, non ci avevo pensato che si poteva fare, sì, non è venuto mai in mente di fare, diciamo, queste cartoline come hai detto tu, la prendo per buona, anche se purtroppo non esco fotogenico nelle foto, comunque è una bella cosa da fare, sì, non ci avevo mai pensato, lo sai. Abbiamo sempre avuto le carte queste dentro la CB, io mi ricordo negli anni 70-80, ce le facevamo, allora c'era il, mi pare neanche la stampata, io l'aveva fatta l'Associazione Civile di Paolo Torres, Radio Club Onda del Golfo, che poi lì è nata Radio del Golfo, l'aveva fatta Ernesto, ce le aveva tutte distribuite ai succide. E mandavamo quelle lì con il nominativo, con lo sparviero, eccetera, eccetera. C'era la casella postale, allora il P.O. Box che era 187, lo ricordo sempre lì della casella postale delle poste di Paolo Torres. E quando andavo c'erano sempre cartoline, e era bello perché te le mandano, insomma, c'hai sempre un riscontro perché fare i collegamenti e poi non avere un riscontro. Dice, ma io ho collegato, quando l'hai collegato, fammelo vedere, cosa le fai vedere? Capito? Per noi è diverso perché noi andiamo a livello digitale, quindi ogni volta che c'è un collegamento metti il nominativo sul log di stazione, ti appare F7 e lì lo metti al log e quindi ce l'hai il collegamento. Dopo i tanti collegati ce li hai tutti lo stesso segnati e mano a mano l'associazione ti manda le QSL che tu spedisci, però è una cosa diversa. Per quanto riguarda la 27 c'era sempre quel coso di avere queste cartoline. tanto la modulazione dai il tuo indirizzo di posta e poi vengono spedite. No, la verità non ci avevo mai pensato. No, io mi riscrivo sempre in quel prontuario della 27, ogni collegamento che faccio, con chi parlo, no, giorno, mese, anno e compagnia bella. Sì, già ci vuole anche quello, però le cartoline sono molto più... Dai, molto più belle da avere. Sì, è vero, mi sa che un pensierino ce lo faccio, no, con la mia faccia, qualche altra cosa, perché ripeto, esco sempre male in foto. Dunque, qualche altra immagine già si può inventare per poi utilizzarle, diciamo, in occasioni con grazie alla propagazione. Sì, sì, una bella idea. Adesso ci faccio un pensierino, vediamo cosa ne c'è fuori. Non è obbligatorio avere la foto, capito? Io recepito le mie foto, no? Ci sono su guerredetta.com, se vai a vedere, ci sono io seduto davanti alle radio, basta, quello è un altro discorso. Quello che ho io non ne ho di fotografie. Me le mandano moltissimo quella foto, soprattutto i portoghesi, quella gente lì, sono tutti malati di capo. Ne ho fatto uno lo stesso al Brasile, l'altro giorno c'è questo, sembra un marocchino, cazzo brutto come una minchia. Quindi per essere così non mi sarei mai messo. Tutto con gli occhi storti, sembra tanto Geppetto quando stava facendo Pinocchio. Vita, che sono dei bei ricordi. E a volte non deve bisogna accettarsi com'è una persona. Comunque, già sono belle anche queste cose, dai. Vabbè, ma si è sentito tanto molto male, non ti fai fotografie. Per te è bello, c'è il Galaxy, ti avvicini e... fai la foto ingrandita bello del Galaxy e te lo stampi sulla QSL e dietro poi ti scrivi le cose che devi scrivere, il nominativo, il coso della banda, il segnale, il country che hai fatto, quindi insomma la città, tutto, Sardegna, Italia e basta, stampi così, ti costa una cazzata, te ne fai 200, 300, 500. Costa 20, 30 euro e ci direi quando fai il collegamento una volta te lo segni sulla carta, poi te lo trascrivi sulla QSL, ti metti un francobollo e la spedisci. Se arriva il culo, quando arriva perché insomma ci vuole sempre per 10-15 giorni, però quando gli arriva le fa piacere e lui te la rimanda. Sì, no, già una bella idea, giustamente queste cose le hai fatte prima di me, dunque sono dei bei ricordi, no, lo faccio anch'io. Ti volevo dire, come tutto per una bella idea, fare la foto per tutta la stazione che ho, giustamente per in ordine, e poi per fare questi cartoncini posso andare in qualsiasi fotografo. Ti fai la foto con la macchina fotografica digitale, poi te la scarichi al computer, dalla porta USB della digitale, e con la stampante te la fai su carta normale, te la stampi su carta normale, e porti quella lì come ho fatto io, e poi si arrangia lui te la stampa direttamente su cartoncino, te la fa lui, capito? Praticamente è come un cliché, no? E porti la foto come cliché e lui te la fa su cartoncino, poi capito, si arrangia lui con la sua digitale. Perfetto, in qualsiasi fotografo, sì, faccio così, e se appena finisco di sistemarmi la stazione, che sta aspettando l'apparato, che è in riparazione, gli faccio una bella foto, dai, va benissimo, sì, ottima idea. Sì, vabbè, per dare un segnale, no? Visto che fai collegamenti, giusto per dare un segnale, le mandi la carta QSL, come si diceva sempre, no? Carta QSL, noi diciamo via bureau, quindi via associazione, e tu quando rispondi dici ok, carta QSL via diretta, lui capisce che le mandi la cartolina, la QSL stampata, quindi lui ti segna, ti mette al log e poi te la rimanda. No, bello, perché un bel ricordo della 27 quando ero a casa di mia madre, eravamo sempre tutti in AM, in FM, ce n'erano pochi, qualcuno aveva le bande laterali, io avevo l'HB23 quindi tutto in AM, ma ero sempre lì quando c'era propagazione. un'ottima zona per fare collegamenti a lunga distanza. C'è il mare davanti, quindi cioè è bello. Ok. È vero, dai, dunque alla fine ti ha portato indietro nel tempo, ti ha dato dei bei ricordi, vedi, quelle potete approfittarne, sempre se va bene come idea, fate un'enorme cornice in vetro e sistemarne una vicino all'altra, vai, e averla lì nella tua stazione, anche quello è un bel ricordo, perché no? Lasciate chiusi in scatola, ogni tanto è bello, c'è lì nel muro, le vedi e dai, ti fa tornare quel sorriso, io l'avrei fatto, se sicuramente ne avrai una scatola piena e su una bella cornice. Ma voglio contatti così a occhio, saranno un 300-400, una cosa del genere. Ma poi è bello che ho trovato anche quelle stampate che avevamo fatto a suo tempo e quindi un po' mi ha fatto ricordare il passato, capito? Perciò per quello che lo sto dicendo. E comunque sono belle cose, ecco perché ho detto, rimane sempre un ricordo, visto che sento spesso in questi giorni, in questo periodo vi seguo, sento che siete un po' tutti impegnati nei collegamenti qua, fuori dall'Italia soprattutto, insomma, ci sono molto, vabbè, oggi c'era molto la Sicilia, perché in Sicilia sta facendo molto caldo, quindi c'è uno scritto molto lungo rispetto a noi. Riescono ad arrivare molto bene, però ho sentito qualcuno appunto che faceva dei collegamenti con la zona dell'oceano, quindi l'oceano Atlantico, l'oceano Pacifico è un po' più difficile, sono le direttive, ma l'Atlantico già va bene, sono Portogallo, Spagna, le cose più essenziali, i brasiliani, insomma, ce li hai a 230-240 gradi verso sud-ovest, quindi arrivano, ma dietro l'Oceano Pacifico sono le direttive, è un po' diverso, il Cile, quella roba lì, gli Stati Uniti, quelle cose lì, sono le direttive, però in verticale già si riesce a lavorare. Quando c'è la propagazione buona, già si riesce a fare qualcosa, la Sardegna. Quello sì. No, l'unica cosa, la virgolette, mi dà un po' di fastidio è che, diciamo, quando capitano queste occasioni di collegamenti, succede un casino nero, uno che si parla uno con l'altro, si capisce un cazzo, scusando la parola, è allucinante. Invece di approfittarne, diciamo, avere una cosa un pochettino più ordinata, boh, io non capisco una parola. Tutti che cercano di schiacciarsi uno con l'altro solamente per avere un controllo, almeno se un controllino veloce ci sentiamo e apre un discorso alla fine, invece non si capisce mai niente, guarda, specialmente nel 45 è uno schifo. No, non ci vado mai io, no, vi ascolto qua nel 10, nel 12, nel 5, adesso sentito a te, sono entrato di te da solo, sono stato salutato. Fammi due chiacchiere, ma di solito sono sempre un ascolto sul 5 quando c'è gente, capito? Giusto così. Va bene, dai, Antonio, sono già le 10, mi sposto dall'altra parte, metti a spegnere tutto qua, anche io una sciacquatina, mi preparo per la notte, e poi a mamma e domani, nello 3 alle 6, sono anche solo per la settimana del mio responsabile, si è preso una settimana di ferie, quindi mi devo assumere un po' tutte le cose da fare, domani sarà anche una giornata un po' balorda, se non cambia sto tempo non c'è niente di fare. Ciao, grazie di aver chiacchierato, quando ti sento entro a salutarti, pensa, c'è una cosa bella, mi fa una foto, quella che vuoi, anche di una radio che non è la tua, una contenuta, se poi devi stampare ci puoi mettere qualsiasi radio, puoi lavorare dal computer, vai su Google e digiti per dire TS850, ti appare la foto del TS850, ti stampi quella e ti fai le QSL con la foto del TS850, dico una coglionata, ma qualsiasi tipo di radio che ti piace, no? Un IC7004, un 7000, un 940, tu digiti lì su Google la foto più bella che vedi, questa mi piace, la stampi e la poi avanti dell'idea, perché non ci avrei mai pensato, dai, diciamo, aiuta anche in questo caso a farla appena più completa questa 27, no, una bellissima idea, ti ringrazio, adesso che non mi assiste vedo un po' di fare una bella foto alla mia stazione, dai, così, se sarò vivo più avanti saranno dei bei ricordi, giustamente come li hai tu. Va bene, buon proseguimento di serata, buonanotte e buon lavoro per domani, dai, ci sentiamo alle prossime quando ne hai voglia. Sì, quando è possibile, cioè entro a salutarvi non è un problema, ma vi seguo sempre tutti i giorni, quando ci siete io sono in ascolto, non c'è problema, se voglio fare qualche battuta o intervenire su qualche argomento interessante, ci intervengo sempre a rompere le palle. Ok, ciao Antonio, salutami a Gianni e a Giuseppe quando rientrano, allora, buonanotte a tutti. Grazie, classe, sentiamo, ciao. Attento Gianni, doppio. Niente doppio, dai, ci facciamo un giro negli altri canali. Ciao, classe.